devo fare. Craig registra, benvenuti. Episodio 159. Minchia, quanti ne abbiamo fatti? Con me ci sono Jacopo e Andrea. No. E parliamo di un film. Abbiamo parlato l'ultima volta di un film serio, ma non serio. Adesso parliamo di un film che non è serio, ma è sorprendentemente bello. Almeno secondo me. Il film in questione è Chip e Chop Agenti Speciali o Chip and Dale Rescue Rangers, che è il... anzi, it's not a reboot, it's a comeback, perché è quello che c'è nella locandina del film, che è diciamo, il reboot, anche se loro non vogliono dirlo, di Chip e Chop Agenti Speciali, che era una serie animata molto vecchia, che però è uscita quando, esatto, anni 90, e che io avevo visto, non so se voi l'avete vista, però non me la ricordavo, e visto che questo film ti fa vedere qualche scena, me la sono ricordata. Ah, sì. Pure un pochino, sì. Io poco l'ho vista, però penso che Allora, che tra l'altro adesso credo sia su Disney Plus. Ah, sì? Penso di Ma sì, cioè nel allora... senso che comunque Disney Plus, vabbè, è sempre Walt Disney. Questo film è su Disney Plus, e era uscito credo al cinema, non so, in Italia. Che devo dire? Ah, ok, no, niente. Allora, il film è appunto un reboot. Della squadra della diciamo della coppia Chip e Chop, ed è un metafilm, diciamo, perché parla diciamo del film, della serie TV, però dal punto di vista degli attori che recitavano nella serie TV. Che è un'idea molto carina, non è la prima volta che la Walt Disney usa una cosa del genere, ed è però molto carina, per cui Chip e Chop sono Chip e Chop nel mondo reale, reale nel senso il mondo metà reale, metà cartunesco. È un film animazione mista, molto mista, nel senso che ci sono molti tipi di animazione diverse, ci sono parti girate con attori veri, ci sono parti diciamo disegnate, e ci sono anche credo un altro paio di diversi tipi di animazione, tra cui anche l'animazione 3D. Infatti, come si vede dalla locandina e credo anche nel trailer, uno dei due protagonisti è 3D e uno è disegnato, che è un'idea carina, fa un po' strano, devo dire, però è un'idea molto carina. Quindi la trama si riapre con diciamo, allora, intanto appunto è un mondo che contiene sia personaggi animati sia persone normali che convivono, quindi è una sorta di Space Jam 2 fatto bene. E Chip e Chop, cioè, allora, l'inizio del film è una merda perché è un flashback Oh no. e mostra insomma come sono conosciuti i due protagonisti. E fa vedere l'inizio della serie televisiva e diciamo che la loro carriera dopo. Visto che non so se lo fa vedere, credo sì, però Dale, che è Chop in italiano, credo. A un certo punto decide di fare un altro di fare un pilota di un'altra serie TV, e quindi la serie viene cancellata perché manca il protagonista e mancano poi gli altri personaggi, eccetera, eccetera. Il film si apre 30 anni dopo, in cui fa vedere le vite di Chip e Chop, e Chip è un venditore di assicurazioni, credo, e Dale invece fa le fan le fan con le convention di fan, tipo i Comic Con, queste cacate qua. E il film è diciamo, la trama principale si apre quando un loro ex collega, che è Monterey Jack, che in italiano non mi ricordo come si chiama, penso uguale. E dice che appunto è finito in grossi guai e gli chiede aiuto per il suo, diciamo, il suo traffico di formaggio puzzolente. E basta, in realtà dalla mia descrizione della trama non si capisce quasi un cazzo, però peggio per voi. Il film conta doppiatori molto famosi. E più che doppiatori, attori veri e propri molto famosi, e quindi ci sono per esempio Andy Samberg, J.K. Simmons, e Seth Rogen, c'è un sacco di gente molto famosa. C'è un'attrice principale, giusto? Una star principale che dovrebbe essere Kiki Lay, credo. Kiki Lay, Kiki Lay, vabbè, Non insomma. molto famoso. Non molto famosa, ma è la, diciamo, è l'unica co-protagonista secondaria umana. E poi ci sono appunto un sacco di attori che interpretano personaggi animati e ci sono un sacco di altre citazioni, un sacco di easter egg, e c'è veramente tanto da tirar fuori che non è invasivo, secondo me, e che condisce bene la cosa, anche perché spesso se non capisci molte delle cacate che ci sono su schermo perché sei vecchio o perché non te ne sei mai interessato, non succede nulla. Cioè, l'unica roba principale è il legame con la serie animata. Che però è abbastanza evidente anche perché vengono ripercorsi tutti i punti, quindi in realtà non è un sequel, è appunto un reboot vero e proprio che però ha come base la serie iniziale, cioè vabbè, un comeback, va bene. Ma al contrario, però, nel senso, cioè, un ragazzino cioè, lo apprezza allo stesso modo, secondo voi? No. Infatti, quello mi ha fatto Però pensare. secondo me lo apprezza comunque. Lo apprezza come film, diciamo, leggerino con personaggi strani. Sì. Cioè, secondo me un bambino lo apprezzerebbe, un ragazzino tipo teenager magari non gli piace neanche. Noi, almeno a me, è piaciuto molto. Sai già come Madonna, dire. tantissimo. Sono stato E tutto il tempo col sorriso in bocca. io anche ho un personaggio preferito. Che è Gambi, il capitano della polizia. Madonna, che bello. E l'ho amato. Vabbè, cioè che Simmons non si può non amare. Tutti i diversi. No, vabbè. Un sacco di citazioni anche non nell'universo di Walt Disney, quindi è carina come cosa, nel senso che ha pescato anche da altre parti. Ci sono un sacco di robe tipo che sembrano delle barzellette, del tipo cosa farebbe Peter Pan da vecchio, che sono carine, cioè sono cose molto carine e sono cose anche non molto da Walt Disney in realtà, quindi non è male come cosa. Vero, cioè, è un'altra di quelle cose un po' alla Free Guy, dove hanno preso il concetto del metaverso, ma senza parlare di metaverso, cioè facendolo bene, no? Cioè, Sì. E giustificandolo in un certo senso. c'è Figo. tanto tanto a schermo come in Free Guy, cioè, e allo stesso modo se tu guardi dietro ai protagonisti che parlano ci sono tante cose che non sono lì, cioè sono idee geniali che magari le mettono dietro e puoi vederle se vuoi, se no sti cazzi te ne puoi fregare. Di quando vanno tipo in quella strada, quando tipo vanno dal tizio che vende formaggio e camminano su quella stradina tutta fatata, Sì. piena di dettagli, anche tipo quando c'erano tutte quelle cose appese, tipo i capelli, i pezzi di cose, no, tipo c'erano i capelli di Sora di Kingdom Hearts, sono di una di quelle buste, cioè pieno di sta roba, benissimo. Poi ci sono anche tipo nomi storpiati, tipo vabbè, Rat Capone che c'erano nei cioè della serie dei vecchi delle vecchie serie TV della vecchia serie TV e Ah, c'è della da serie, la ok. serie originale, esatto, che sono nomi storpiati che hanno ripreso. Praticamente anche la serie originale prendeva un po' da quello che era diciamo, la cultura attuale e Alto. storpiava le cose. E questo fa uguale, di fatto, cioè è rimasta la stessa roba, più tutto il mondo Disney e altro che ha preso dentro. Cioè c'è Darkwing Duck, rega. C'è. Darkwing Duck, madò. Boh. C'è veramente tanto, Ma ci tanto. fanno Vabbè. qualcosa con lui? Oppure hanno messo così Lui alla c'è. Lui in ribalta? realtà appare spesso anche in DuckTales. Spesso, vabbè, in un paio di puntate. Io spero che prima o poi ci facciano una serie, ma in realtà io vedo Darkwing Duck un po' come Batman. Cioè, non è facile da fare una serie intera e farla bella. È più facile fare un film, una cosa breve. Cioè, tipo 2 o 3 puntate. Comunque, a proposito di DuckTales, mi è fatto venire in mente, questo film mi ha ricordato molto DuckTales, almeno le prime 2 stagioni di DuckTales, cioè, Nuovo o quello vecchio? non lo so, è più intelligente di quanto dovrebbe, di quanto mi aspettassi almeno. Cioè, il fatto, per esempio, che sia Chip quello che è rimasto, diciamo, disegnato a mano, che poi comunque non è disegnato a mano, è comunque 3D, ma fatto con lo stile, diciamo, animato a mano. E Chop sia quello invece che ha seguito la moda, no? Cioè quell'idiota che segue le mode stupide di tipo Alvin e comunque ci sono anche loro, ci sono anche Alvin e Chipmunks, che vengono presi per il culo con il rap e le cose. Cioè il fatto che, appunto, come dici tu, ci sia Peter Pan che cresce, ci sia la Disney che affronta un tema come quello del maroccamento, non so come si chiama in italiano, come si chiama? Bootleg. Non so di Cioè cosa stai il parlando. fatto di avere le versioni fasulle, tipo le versioni fatte Ah, in sì, Corea. non lo so, ok, però sì, sono i bootleg, sì. Cioè questa cosa è un tema super tabù per la Disney. Cioè, non me Anche lo so. perché la Disney l'ha subito molto. Ma soprattutto c'è, cioè, la Disney non, cioè non li ha mai, non so come dico, cioè non ne ha mai parlato, cioè non so come dico, cioè è una cosa super strana da vedere in un film. Vabbè, è anche il male nel film, quindi ci sta, Sì, però però è come se avessi è visto Yotobi sullo sfondo, cioè, capito? Mi sembra una cosa che è un po' uno shock inizialmente. sì. Quello intendevo più che altro. Poi anche tipo che si incontrano Pumba nuovo e quel personaggio vichingo, entrambi sono Seth Rogen, cioè il fatto che i doppiatori sono condivisi. Quindi, cioè, hanno affrontato il fatto che, cioè, c'è questo universo dove i personaggi sono nel mondo reale, diciamo, quindi non sono i veri personaggi che sono nel telefilm, tipo le voci sono diverse, no? Cioè loro giustificano il fatto che siano Andy Samberg e coso, e si John chiama John Mulaney. Mulaney, perché poi quando tipo litigano oppure fanno la voce del personaggio sono le voci Sì, quelle dei, fanno esatto, l'high pitch. e non solo quello, cioè hanno anche affrontato il fatto che, appunto, due personaggi doppiati dallo stesso attore che si incontrano hanno la stessa voce, cioè è un altro mega tabù. Cioè, non so come. È come se domani facessero il crossover fra Avengers e Fantastici 4 e ci fossero due Chris Evans. Cioè, Vabbè, non so. Cioè, no, vabbè, io mi sento veramente uno stronzo a su dirlo, Avengers ma. c'è in realtà. Cioè, Avengers sono, sì. Cioè, Cosa? Hawkeye e il Procione che c'hanno è lo stesso doppiatore, per esempio. Dove? In Avengers. No. Sì. Cioè, Quale noi Avengers? italiano Film? almeno. Ah, in italiano, ma in Sì. inglese no, in inglese Sono sono due inglesi, diversi. no, Avengers, due attori ah, diversi. Sì, in italiano ok. sì. No, no, però non è una cosa che affrontano, non so come dirtelo, cioè è una cosa che tu non ti dovresti accorgere neanche in teoria, no? Cioè, non so come dirlo. Dovrebbe essere, cioè, per definizione è una cosa che non dovrebbe vedersi perché sono due persone uguali. Ma non lo Esatto, so. dovresti avere l'illusione. Esatto, sì. No, volevo dire una roba che mi sento un po' uno stronzo a dirlo. Io consiglio di fare, anche se non mi pagano, purtroppo, Disney Plus, per un semplice motivo, perché le serie TV Disney sono molto più belle dei... Cioè, non sono molto più belle, sono molto... Non so, sembra che abbiano tipo spostato l'attenzione e fatto diventare... o magari è sempre stato così, non ce ne siamo mai accorti perché erano meno accessibili. Far diventare i film, a parte i casi estremi, tipo appunto, vabbè, Up e quell'altro lì, come cazzo che si chiama, quell'altro che uscì, Soul. I film sono più banali, sono più piatti, trattano di argomenti importanti, ma cioè rimane la roba, tra virgolette, sapio. Invece le serie TV... Sono, da un punto di vista di cultura pop, sono fuori di testa. Cioè, per noi nerd sono tipo l'orgasmo. E tipo le avventure di Topolino, che Sì, Madò, è una serie sì. È stupida. una serie per nessuno. È tipo per te e per me, Salla. Cioè, non so chi la guarda. È bello. Sì, però. Ma Cioè... anche DuckTales stesso. Sì. Non è per bambini, cioè è un orgasmo di citazioni nerd, ma fatte bene, curate. Non lo so, è bello, cioè, è bello che sia tutto incluso in questo canone, in questa tassa che pago. No, io pensavo di essermi preso tipo un ictus, cioè io pensavo di aver avuto un ictus, lo sto vedendo adesso, di aver avuto un ictus quando ho visto la puntata di Topolino che fa il mandriano con il formaggio. Sì, io ho provato a farlo Cioè, vedere ad Angela, ma non mi ha creduto e non l'ha voluta no, vedere. ma perché? Ma per chi è quella puntata? Cioè, nel senso, come fai a spiegarla? Cioè, È incredibile, Andrea. Tu non hai Disney Plus, ma dopo te lo presto e te lo guardi, tanto dura tipo 10 minuti. Cioè, Andrea, c'è ma Topolino che per io 8 non lo, minuti. cioè, sono di quelli che non capi, cioè, non capirei perché non so, non... Ma non c'è Cioè... niente da capire, cioè, sono È tipo il 8 film di cui minuti di nulla. abbiamo parlato la settimana scorsa, però senza la parte Cioè... sapio. Sono 8 minuti di nulla, è stupendo, cioè, è Topolino che fa il cowboy, ma le mucche sono ruote di formaggio, cioè, sono forme di formaggio. Cioè, è... È bellissimo, È cioè, credo bellissimo. sia e appunto è così, ma se andate su Disney Plus e cercate tra le serie quelle Disney che non si caga nessuno nuove, appunto tipo DuckTales, se non so quanta gente in Italia l'abbia visto che ha più di 30 anni, tipo forse solo io, è pieno di sta roba, di citazioni a robe vecchie, di cose che non hanno senso, di Darkwing Duck, cioè... E questo Chip e Chop, è della stessa idea, forse a budget più alto, però. Manda. Ditemi che non sono l'unico cretino che ha riso con Ant-Man. L'uomo faceva innamorare dei No, no, topolini. riso. No, ma a me poi tutta la parte con Angry Sonic, con Sonic quello lì originale, brutto, mi ha fatto morire. Cioè, un'idea geniale, che non so chi è venuto in mente di riciclarlo così, però veramente, cioè, del porco non si butta via niente, qualsiasi effetto speciale scartato lo voglio riciclato così, per favore. Ma a me ha fatto morire anche il fatto che i cattivi siano quelli nella valle di Uncanny Uncanny Valley, esatto, che è quella Valley. La degli valle anni 2000. perturbante in italiano. Esatto, dove stai guardando? Sto guardando voi. Questo è Questa un scena è fenomeno. bellissima. Esatto, c'è un Spettacolo. mix tra Polar Express e Beowulf che poi ci ripensa e dici, cazzo, è vero, ma non ci avevo mai fatto caso che era così brutto quel periodo per quanto riguarda l'animazione 3D, che poi non è neanche animazione 3D, è tipo, come si chiama? Boh, No, è tipo motion performance capture, sì, capture, motion capture, sì. motion capture characters, qualcosa del genere. Ah, vabbè. È pieno di roba molto bella. Poi c'è Baloo che è tipo la celebrity, cioè Madonna, è tutto Baloo. tipo cioè, ci sono i personaggi appunto carsi, cioè inutili o dimenticati come Tigra, che sono tipo appunto con lo stand piccolino. Poi c'è tipo Baloo che lo riconosco, ma... Baloo, sì, che poi sono vecchi in realtà, c'è Rob Jer Rabbit all'inizio. Esatto, infatti volevo dire, tu hai detto questo film è un Space Jam 2 uscito meglio, secondo me io invece ho visto molto più Roger Rabbit, vero, sì, come sì. Upgrade, e mi è piaciuto veramente un sacco. Anche come interazione con gli umani, effettivamente, ora mi ci fai pensare quando c'è, come si chiama, Gumby? Gambi? Gambi, credo. Gambi? Sì. Chi? Il personaggio originale dovrebbe essere Gambi, tipo. Però vabbè, c'è lui che interagisce Capitano con... Capitano Patti. C'è lui che interagisce con lei, con la tizia, la sottoposta, che in una scena c'è... Vabbè, spoiler, in una scena un po' c'è una zia zuffa, no? Quella scena è fatta benissimo, cioè quando tipo lui la... c'è lei che tipo lo fa a cubetti, cioè... Che non so, esatto, lui non solo è fatto bene, cioè l'interazione, ma lui continua a muoversi in stop motion, cioè ha toccato anche lì, cioè a me se vanno matti, cioè sì, è una cura che è anche, cioè se ci pensi è anche inutile, nel senso esatto, che esatto, cioè perché devi fare questa cosa. È come se avessero preso uno che è un perfezionista e gli avessero dato un budget gigante e detto: tieni, fai questo film, non ci importa se ti ossessionano i dettagli, anzi, fallo. Il budget è infinito, fai come cazzo ti pare. Ma non so, interessa Chip e Chop, non so perché hanno dato tutti questi soldi. Esatto, e non so neanche quanti, perché il budget è altissimo, tipo 70 milioni di dollari, una cosa del genere. Minchia. Ma la gente l'ha visto, secondo me un sacco di famiglie. Sì, beh, ripeto, è bello, cioè è la resa è bella. No, ho visto che hanno fatto pubblicità super aggressiva, cioè l'ho visto ovunque, non so voi, la locandina, la pubblicità. E c'è stata una serata dove Jimmy Kimmel era malato e John Mulaney e Andy Samberg hanno fatto loro lo show, tipo 30 minuti di pubblicità Chip e Chop, cioè si sono intervistati a vicenda e hanno fatto vedere la stessa scena entrambe le volte di Chip e Chop, quindi cioè milioni di americani avranno visto il... Sì, vabbè, comunque ecco, appunto, la Disney avrà fatto le sue indagini, eccetera, eccetera. Detto questo, sono molto grato che abbia fatto sta cacata. C'è anche Pete il drago, come si chiama in italiano? Che è anche Elliot il drago invisibile. Ah, vabbè. Però se ci pensate, Elliot il drago invisibile era animazione mista. Ah, sì? Eh sì, perché c'era Elliot il drago, era un film. Oddio, è vero, ma... questo non l'ho notato, dov'era nel film? Tipo mi pare all'inizio, o forse era tipo uno dei bootleg. Dio che mi hai sbloccato un ricordo. Io di questo ho veramente pochi ricordi di questo film. C'è roba vecchia, ci sono, vabbè, poi c'è anche roba nuova, ci sono i My Little Pony, Rick e Morty. Che morti, sì, c'è un sacco di roba nuova anche, però sì, mi sa che un adolescente non lo so, non sono adolescente, non ho figli, quindi in realtà io non ho altro da dire a parte andatela a vedere. Niente da dire, bello. Arrivederci, le watch now. Io avrei in chiusura un giochino, se davvero non ho nessun altro da dire. Allora, visto che Salla mi ha detto vogliamo altri giochi, ma io non ne ho preparati altri perché è lo stesso giorno della scorsa puntata, ho portato un vecchio gioco, cioè scommettiamo su box office, sugli incassi dei film. Però sarà tosta, sarà una scommessa tosta, perché si parla di un film complicato, si chiama Lightyear, il film sulla storia di Buzz, diciamo, Buzz Lightyear. Nuovo film Pixar che prende il personaggio Buzz Lightyear di Toy Story, ma fa il film su, cioè, come se fosse un film dell'universo di Toy Story su Buzz Lightyear, quindi non è sul giocattolo, è proprio sulla persona Buzz Lightyear da cui è tratto il giocattolo, o meglio, su la persona di fantasia da quel tratto giocattolo, perché ovviamente Buzz Lightyear non esiste neanche nell'universo di Toy Story, non come giocattolo. Il protagonista è Chris Evans, che farà la voce di Buzz Lightyear nel film. Poi sono altri doppiatori famosi, tipo James Brolin, Taika Waititi, Sal. Davvero? E sarà una storia appunto di avventure nello spazio. Perché vi dico che è difficile? Perché c'è un problema. Questo è il primo film Disney Pixar che esce al cinema dai tempi pre-Covid, o subito prima del Covid, penso, di Onward. Onward, film che ha incassato 141 milioni in tutto il mondo, anche per colpa del Covid, perché era appena iniziato il Covid, era il 6 marzo. Ma che non l'ho visto. Qual era questo? Quello con i due fratelli, col padre, che cercano di resuscitarlo. Io non l'ho visto, mi hanno detto che avrei pianto se l'avessi visto. È carino, sì, cioè dipende da che persona sei. A me non ha detto molto, però so che a molti ha devastato. Infatti mi sa che non lo posso vedere questo film. Dipende dalla storia familiare che hai, altre cose. Però, detto questo, nonostante, diciamo, i pochi incassi causati dal Covid, va messo anche, diciamo, a confronto con Toy Story 4, che ha incassato 1 miliardo in tutto il mondo. $1 miliardo. Quindi dovete scegliere un numero fra 150 milioni e 1 miliardo. Vabbè, no, potete scegliere quello che volete, però il range è molto alto. Cioè, io non so sinceramente quanto potrà incassare sto film. Quindi vi dico, questi sono due punti di... Quando esce? No, non è già uscito, esce il 17 giugno, quindi se ci state ascoltando è uscito ieri, tipo, okay. Ieri, se ci state ascoltando la stessa settimana. Dovrebbe uscire il 17 giugno al cinema, non so se in Italia esce lo stesso giorno, perché di solito i film Pixar li fanno uscire un po' dopo, ma vedremo. Cioè, comunque a un certo punto noi diremo, no, dovrebbe uscire la stessa settimana anche in Italia. Aspetteremo un po', a un certo punto diremo i risultati di questo box office. Magari diamoci un limite, che ne so, tipo una settimana dopo che è uscito, avrà tot incassi. Ok. Ditemi voi, insomma. Allora, io devo fare una confessione. Io ho visto solo Toy Story 1. Ah, anch'io. Neanche il blocco 3 avete visto? No, infatti con Angela volevamo fare un rewatch, solo che per me è dura, perché io poi piango, ogni film è un casino. Il 3 per me è stato difficile. E, detto questo, sono andato a indagare e ho visto che il regista ha fatto un'altra roba che fa cacare, e quindi secondo me andrà male il film. Cioè male, male per quanto è la Disney, quindi... Il regista di Lightyear? Sì. Ah, però bella idea. Perché in realtà i film Pixar vanno molto per registi. Però la gente non lo sa, magari va a vederlo comunque. Perché è giusto, perché è Lightyear. Perché... Sì, no, ma infatti andrà male per quanto possa andare male una roba della Disney. Scusa, ma la ricerca di Dory ha fatto 1 miliardo, Salla. Sì, però è una merda. Sì, lo so. Però noi siamo a scommettere sul box office. Esatto, non ci interessa se fa schifo. Ma veramente 8 miliardi? Mi stai prendendo in giro? No, no, 8 miliardi. No, vabbè. Non lo so. Ve lo giuro. Secondo me 400 milioni. Dopo una settimana, guarda, come paragone Dory ne ha fatti 200, Toy Story 4 180. Allora 150. Ok, Salla 150. Ah, una settimana... Ma aspetta, mondiale? Quello di cui avremo il valore. Cioè, Dory ha fatto più soldi della ricerca di Nemo, ti rendi conto? Sì. Aspetta, ma Toy Story 4 ha fatto 150 milioni dopo una settimana solo? In America sto parlando. Ah, in America, ok. Cioè, quello di cui abbiamo i dati, che è solo l'America, purtroppo. Sì, perché da noi arriveranno tipo dopo 6 anni. Quindi Lightyear, Salla... Toy Story ha fatto un botto. Toy Story è... Stampa soldi. Merda. Io dico 120. Ah, ma Toy Story 4 ha vinto l'Oscar. Ah, sì, è vero. Porca puttana. Beh, d'altronde, un film che parla di giocattoli può solo sfornare soldi e giocattoli. Quando hai detto tu, ya? Ho detto 120, sala 150. Se vuoi fare lo stronzo devi dire 132. No, no, io dico 200. Ah, ok. Perfetto. Chi diciamo è a distanza minore vince. No. Va bene, ci sta. Ci sta, ci sta. E io però ho pessime aspettative per questo film. Quel qualità, dici? No, anche perché Buzz è un personaggio che mi fa caccare. E io però ho visto solo Toy Story 1. Dal trailer non si capisce molto, quindi a meno che, cioè, a meno di sorprese, boh, pure io aspetto. Vabbè, ecco, esatto. Oh no. Detto questo, vado a piangere. No, grazie di aver seguito. Andate a vedere Gibendale. E grazie di aver registrato con me. Ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao. Avete un amico in me.